Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Alino, uno di noi. Ciao ragazzi, siete bravissimi. Milan, non c'è niente da fare, tu combatti contro i mulini a vento. Milan, fagli cantare ancora qualche canzone a Veronica, ci ha fatto venire la pelle d'oca. Oh Maria, è ritornato ora il mio figliolo, ti volevo fare auguri, hai capito? Ciao Maria, buon compleanno vecchio buo bauscione, ciao! Anacleto ce l'ha fatta a impossessarsi del cellulare del figlio in ritardo, ovviamente è tornato da scuola e mi chiama Maria perché io mi chiamo Alessandro Maria, ormai questo è saputo. Ma tu capisci che prova d'amore? Ha aspettato il ritorno del figlio da scuola e te l'ha mandato nel tardo pomeriggio. Certo. Ho quasi pianto io ieri, guarda. Ma infatti ci siamo quasi, Anacleto. Sta imparando perché usi WhatsApp in maniera perfetta. L'audio si sentiva benissimo. Ti chiama Maria, che c'è anche un che, va poi bene, no, sei un po' la sua, come sì, la sua Laura, sì, per Petrarca. Bello, però una cosa bella. Certo, ora impara proprio la tempistica, cioè, tipo comprarsi un cellulare con WhatsApp. Tuo, senza rubarlo al figlio. Sei sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto. Vabbè, il bicchiere ragazzi, mezzo pieno è che te buon compleanno Maria. Ma no, ma noi lo stiamo educando, Anacleto, poco alla volta, lo stiamo educando. Il prossimo passo, magari te lo compriamo, ne facciamo una colletta per Anacleto. Questo sarebbe molto bello, anche per esempio per Natale, ci mettiamo tutti insieme, dai. Oppure facciamo un crowdfunding, sì, su Radio 24. Dai. Anacle, che te serve? Un cellulare Anacle, nuovo con WhatsApp che funzioni. Buongiorno, i funamboli sono tornati, siamo qui in diretta alle 9:10 minuti. Hai festeggiato, hai gozzovigliato. No, ma queste no, cose normali, banali, poi non interessano gli ascoltatori, dai. Secondo me invece fremono per sapere come hai festeggiato il tuo 47esimo anno. Assolutamente no, niente di che, ecco, niente di che. Sesso, una bicchierata, droga, rock and roll, una bicchierata con amici, dai, fai la brava. Allora, vedo l'aria sfatta, il ciuffo un po' appassito. Oggi io non so come fare perché sono d'accordo con Veronica, prima dovete capire che prima decidiamo. Dice, all'inizio devo dire una cosa, Veronica ha detto voglio dire una cosa contro questo incontro, no, su questa vicenda di Brescia, questo imprenditore che ha aperto la finestra, ha sparato perché ha visto che di fronte alcuni stavano rubando un bancomat, e quindi ha aperto la finestra, pam pam pam pam, e ha sparato imbracciando il fucile, è stato condannato, giustamente è stato condannato, cioè non è che può passare il messaggio che uno apre una finestra, vede un potenziale crimine, pum, prende, fa il cecchino e spara, perché no, non funziona proprio così, ecco, poi pensatela come volete, però trovarci d'accordo è stato un colpo ferale per tutti noi stamattina, sì. Però diciamo che per una volta, no, c'è, cioè, ovviamente chi si è scandalizzato, chi dice ah ma non è possibile, erano dei ladri, ecco, non è che se tu vedi un ladro, tu che non c'entri niente, apri la finestra, prendi e spari, e non spari neanche in aria o spari per dare un avvertimento, ma spari addosso alla persona, la prendi e quindi poi prendi una pena superiore a 2 anni e 8 mesi. Però tentato omicidio rispetto al furto. Ecco, vedi, arrivano subito a Milan, ma vai, e va bene. No, attenzione però Veronica, questo lo devo dire. Quando invece, quando avevamo avuto anche il ristoratore di Lodi, su quello io invece sono totalmente con chi all'interno di un locale, all'interno di una casa, per difesa, per paura, se ha un'arma la usa. Non sto a disquisire, scappava, si spostava, mi è entrato in casa. Guarda, quindi se non vuoi si Alessandro, fa. Il caso più simile che abbiamo avuto è un caso che credo sia ancora sul quale non si è pronunciata la giustizia in nessun senso, è quello del caso di Latina, l'avvocato che non chiamò la vigilanza, entrò in casa dei genitori, ti ricordi? Sì, che certo, ospitato. Certo, ma anche quelli lì comunque sono entrati in casa, sono in casa mia, sono, no, in casa mia. Sì, no, ma era in casa dei genitori, sì, certo, in quel caso, che non erano in casa e lui fu chiamato dall'allarme, in quei casi, però se non altro era a casa dei genitori. Ecco, qui che tu prendi e pensi improvvisamente di giocare a fare tu il giustiziere, di sostituirti alle forze dell'ordine, quando non sei nemmeno implicato in prima persona, ma infatti, purtroppo ma infatti non funziona ma così. Ma guarda, tanto già iniziano a chiamare, fermare a dire ha sbagliato solo la mira, l'ha ferito, doveva ucciderlo, va bene, ma insomma va bene, è chiaro che la maggior parte delle persone ci chiameranno, diranno ma per... anche sbagliato mira, doveva proprio farlo fuori, va bene così. Per ben disporre gli animi, hai sentito che cosa diceva l'ultimo rapporto del Censis? Sì. Sull'Italia rancore? Sì, l'Italia del rancore. Allora, tutti i messaggi che arriveranno dicendogli doveva sparare direttamente nel menisco, lo doveva prendere alla menisco, spalla. Ecco, no. Adesso era per dire. Pensano anche più in alto del chiaro, menisco. Chiaro, sono rimasta al menisco perché non volevo andare più su. Il discorso è che uno, prima di dire queste cose, poi augurare la morte, il male, come in tante altre situazioni che si sono verificate in questi giorni anche con personaggi pubblici che stanno male. Ecco, in questi casi no, uno riguarda il rapporto del Censis e dice... Oddio, ma farò parte di quelle persone. Va bene. Starò diventando livoroso, astioso, allora, rancoroso. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, perché noi dobbiamo iniziare da altro. Chiamateci su questo e sui temi che iniziamo ad affrontare, a cominciare da uno, con un senatore, perché ci ha colpito sapere che Bolzano, che è spesso in testa a tutte le classifiche perché è una delle città più belle, in cui vivere è più piacevole, in cui la qualità della vita è alta, Bolzano invece può essere considerata in alcuni casi anche una sede disagiata di lavoro. Iniziamo da qui. E iniziamo da un senatore dell'SVP, Karl Zeller. Buongiorno senatore. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Lei è anche avvocato ed è il promotore di questo emendamento, insomma di questa proposta voluta. Lei è di Merano, per la verità. Non so se esiste rivalità tra Merano e Bolzano, o siete come dire, sodali in qualche modo. Comunque, Bolzano è considerata sede disagiata per i due consiglieri di Stato, dunque magistrati che lavorano lì. Questo vuol dire che hanno un'indennità economica abbastanza cospicua, no? Quanto ammonta questo disagio da pagare ogni anno? È quantificato? Innanzitutto bisogna dire che il punto di partenza è completamente sbagliato. Perché? Si tratta di una notizia falsa, come si dice oggi, una fake news, sì, dove tutti i giornalisti, e anche questo è un po' spiacevole, sono andati dietro ad una, diciamo, un lancio da parte del giornale e poi anche di Libero, che parlano di sede disagiata. Il mio emendamento non parla di sede disagiata e ha per oggetto tutt'altra cosa. Per questo non comprendo bene come si possa montare una cosa così senza leggersi nemmeno l'emendamento. Adesso ci dica, ci spiego semplicemente di che si tratta. Allora, i consiglieri di Stato di lingua tedesca sono previsti dallo Statuto di autonomia e non hanno la sede a Bolzano, non esiste una sede del Consiglio di Stato a Bolzano, per cui parlare di sede disagiata è proprio una bufala. I consiglieri di Stato di lingua tedesca lavorano, devono lavorare a Roma e hanno però una connotazione un po' particolare, perché a differenza degli altri consiglieri di Stato che normalmente risiedono a Roma, i nostri due consiglieri di Stato risiedono in provincia di Bolzano. Hanno sempre ottenuto fino al 2013 il rimborso delle spese di viaggio, perché devono andare avanti e indietro. Per una difficoltà interpretativa non era più certa la base normativa per riconoscere il biglietto del treno, il pernottamento in un alloggio, in un albergo convenzionato, è venuta meno questa cosa e erano costretti di pagarsi di tasca loro, diciamo, anche la trasferta, e questo non mi sembra giusto. Sì. Abbiamo esteso quindi la normativa che da sempre vigeva, peraltro anche per loro, vigente per tutti i dipendenti pubblici quando devono spostarsi, cioè non si tratta di un'indennità aggiuntiva fissa a 2000 euro di quello che si parlava sui mass media, ma si parla di un rimborso delle semplici spese di viaggio, il biglietto del treno, il pernottamento in un alloggio convenzionato con il Consiglio di Stato. Mi scusi consigliere, ma di che cifra si tratta esattamente? Ma dipende di quante volte devono spostarsi, cioè, no, se perché hanno udienza, sa senatore, la questione è questa: settimana o tre volte al mese, saranno 300 euro di treno, se è solo una volta al mese sono 100 euro, dipende dallo spostamento, come vige per tutti gli altri dipendenti pubblici, nulla di più e nulla di meno. Quindi è anche una fake news quando si parla di un'indennità mensile di 4.000 euro? È sbagliato parlare di sede disagiata, perché non esiste una disagiata, perché la sede sta a Roma, non a Bolzano. Sì, senatore, ma vede, fanno gli spostamenti e col giocare con le parole, guardi senatore, col giocare con le parole siamo bravi tutti, guardi, noi facciamo radio, quindi sappiamo leggere, giocare con le parole, anche le parole, tanto quanto basta lei. Che ma certo, scritto. Ma il dato di adesso io per estrema sintesi dico così, ma il dato di fatto è che guadagnano di più perché sono lì a Bolzano, è vero, la sede a Roma, e si spostano. Una concezione strana del guadagno, perché queste sono spese, non guadagno, ma quando mai uno deve spostarsi per ragioni di servizio deve pagare dal suo stipendio il biglietto del treno? Scusa, questa cosa qua non esiste per nessuno, non mi risulta che sia solo il biglietto del treno. No, si parla di contributi pensionistici raddoppiati per 4 anni, si parla di una serie di privilegi. Non è pensionabile questa, è il rimborso spese e non forfè, ma dietro rendicontazione deve portare il biglietto del treno e gli viene rimborsato tutto lì. Ma questo è il minimo, cioè ma quindi c'è stato basta lì, e questo è. Perché allora parlate di 2.000 euro al mese? No, sono tutte bufale. Le chiedo, ma c'è stato quindi un complotto giornalistico, secondo lei, ordito ai danni di Bolzano? No, una superficialità. Voi giornalisti, giustamente criticato spesso noi politici, perché siamo superficiali, non guardiamo bene le cose, facciamo le leggi sbagliate. Ma la professionalità dovrebbe valere, questo principio dovrebbe valere anche per i giornalisti. Allora, prima di scrivere, non ce l'ho con voi, ma il giornale o libero, prima di scrivere una cosa così, dovrebbe almeno verificare. È il compito del giornalista. Se verifichi, poi spesso si sgonfia molto, e questo non fa piacere, mi rendo conto. Sì, guardi, che non io fa piacere, parlato, non è più una notizia. Io ho parlato con un magistrato ieri, di Merano, lei lo conosce, non posso fare il nome, è un magistrato che lavora a livello internazionale, forse lei avrà capito di chi sì, parla, nella corte penale, benissimo, mi ha confermato tutto, quindi cioè nel senso che guadagnano di più per il fatto di essere consigliere a Bolzano. No, ma io non posso, siccome è un magistrato che conosco bene, molto preparato, lui sa benissimo che, o dovrebbe sapere benissimo, perché conosce anche i consiglieri di Stato, uno ha fatto il concorso in magistratura con lui. Scusi, mi faccia finire. A lui verranno sicuramente rimborsate anche le spese per andare all'AIA, no? Sì. Per cui non è che deve pagare dal suo stipendio il biglietto del certo volo no. per andare da Milano ad Amsterdam, non so. Per cui è non è una parte dello stipendio, questo è un rimborso delle spese che ciascun dipendente, anche privato, ha. Se si sposta per conto dell'azienda, ha il rimborso della spesa, non è che devi pagare dal tuo stipendio le spese che hai per muoverti. Sì, su questo non c'è dubbio. Per questo mi fa anche piacere che voi mi avete fatto l'intervista, perché così mi date anche la possibilità di spiegare, perché ormai c'è questa caccia su tutto, su tutti, senza guardare la sostanza delle cose. Va bene. Sì, diciamo che non sarebbe il primo caso, ecco, perché in Italia l'anomalia di far passare come sedi disagiate tutta una serie di posti è abbastanza frequente. Mi verrebbe in mente una follia e molto così, spesso diventano delle mance elettorali, per esempio adesso certo, siamo a ridosso del virare la manovra. Non è una mancia elettorale questa, anche se è una richiesta condivisa anche dal Consiglio di Stato, che ha col quale ho interloquito anche perché certo che il Consiglio di Stato è d'accordo, se potevano ancora ma certo che il Consiglio di Stato è d'accordo, riguarda un'indennità ai consiglieri di Stato, ci mancherebbe. Ma lei, che non fosse lei ha una concezione piuttosto strana delle istituzioni, non tutte le istituzioni e soprattutto non il Consiglio di Stato hanno questa concezione un po' poco virtuosa, non è così, voi avete spesso al pubblico viene presentato l'istituzione come una cosa spendacciona. Non no, è così. Non da noi. Quando lo è, questo, lo è, quando non lo è, lo è. Questo accade spesso ed è vero, molto spesso viene fatto a ragione, talvolta è diventato una specie di così ormai topos per cui si ripete tutte le volte, sì. Però quando si leggono delle anomalie come appunto il fatto che delle città che apparentemente sono tutt'altro vengono fatte passare per sedi disagiate, magari città in cui la qualità della vita è altissima, certo, e Bolzano lei me lo testimonia. Non c'è una sede disagiata, mai mi verrebbe in mente di dire che Bolzano e Merano sono sedi disagiate, non sono mica un pazzo. No, infatti è amante della sua terra. Va bene, senatore Zeller, la ringraziamo per essere intervenuto e avere spiegato e averci dato queste spiegazioni. SVP. Ale, questo ci sono delle anomalie che insomma lasciano abbastanza basiti, per esempio se Ancona o Siena sono considerate sedi disagiate, sì, a causa dell'organico carente, dell'arretrato che c'è. No, io posso quindi capire fondamentalmente se c'è più da lavorare si tratta di sede disagiata. No, giustamente, se un, che ne so, un membro di polizia viene mandato a Casal di Principe, a Corleone, cito due città che sono notorie, ecco, non voglio dare una patente, sono degli estremi, una patente ai cittadini di questa città, ma sono come dire due città anche connotate dal punto di vista mondiale da. Sì, ma anche se vai al Brennero in un posto di frontiera e vieni messo a 20 miglia a fare un lavoro di un certo tipo, quelle possono essere delle situazioni, ma tu considera che per il personale della scuola sono considerate sedi disagiate 3.500 sì, su 8.000 comuni. Ora io dico vabbè, statisticamente capisco un'isola alto. Lo capisco, un'isola magari lo capisco, uno che fa abbiamo lavoro visto in la nostra ventotene, Ischia, no? Ti ricordi che sì, c'è appunto tre studenti, la tua ventotene, la mia adorata che chiamammo anche il sindaco, ti il ricordi che però che te serve, ti ha fatto praticamente presidente della Proloco in diretta, ma ai tempi ero troppo candida ancora, sì. non tentai in nessun modo di infilare un gancio. Va ma bene, tra l'altro ho citato l'isola, ma un'isola, ma non l'ho fatta apposta, ma in realtà in un'isola in qualche modo vi vogliamo portare adesso, capisci che funambolismo questo non è funambolismo, è pazzia. No, perché abbiamo chiamato un imprenditore, l'imprenditore Antonio Piolanti, che salutiamo, è amministratore delegato di Lasersoft. Buongiorno, siamo a Rimini. Buongiorno. Rimini, voi siete nel settore software gestionale, hotel, alberghi e vari esercizi commerciali. Esatto, da 30 anni sviluppiamo software per queste soluzioni. Ecco, però avete fatto avete preso una decisione, siccome volete gratificare i vostri dipendenti e di questi tempi non è una cosa così comune, no. Avete deciso di portare tutti, e ci dice adesso ci dirà quanti, in una vacanza pagata una settimana ai Caraibi. Ecco perché ha detto l'isola, ai Caraibi. Avrei spiegato tutto il tuo funambulismo così. Una settimana gratis a dipendenti con famiglie al seguito, Piolanti? Sì, allora diciamo che è un'iniziativa che è recidiva, nel senso che 10 anni fa, in occasione dei 20 anni dell'azienda, l'azienda era più piccola, aveva meno persone, avevamo regalato un viaggio a Dubai. Sì. Quest'anno l'azienda compie 30 anni e abbiamo deciso, gli indipendenti sono diventati quasi 30, abbiamo deciso di replicare, visto che ci ha portato bene questa iniziativa, i ragazzi sono stati felici e in qualche modo è giusto anche ringraziarli in maniera non solo a parole o non solo con, io dico anche con il pagare uno straordinario, nel senso che non è tanto il tempo che è messo a disposizione straordinario, ma il tempo che tante volte queste persone poi portano via le loro famiglie e i loro cari per dedicare all'azienda. Non è solo un fatto economico, è un fatto proprio di dedizione, di voler finire un lavoro e farlo al meglio. E questo in qualche modo deve essere premiato in un modo speciale, speriamo di aver trovato quello giusto. Perché lei parte dall'assunto che una delle cose più importanti per lavorare bene in un'azienda è quella di valorizzare, un'espressione cara al mio collega, che è il capitale umano. Sì, esatto, nel senso che noi siamo facilitati in questo perché la nostra è un'industria che comunque produce software, quindi è fatta di persone, non di macchinari. Certo. Quindi gli investimenti migliori che possiamo fare sono proprio nel capitale umano. L'abbiamo sempre fatto avendo attenzione nella selezione del personale, quindi inserendo in organico persone, certo, che vadano, prima di tutto, che siano brave persone, che vadano d'accordo, che siano in grado di fare team e non persone che creano problematiche. E partendo dal concetto che le competenze si possono anche imparare se non le possiede all'inizio della sua attività lavorativa, ma se una persona che lavora bene con gli altri, questo non si può imparare, questo è qualcosa che sia dentro. Ma dov'è che andate? Giusto per farci i fatti vostri. Per rosicare un attimo, no, per rosicare. Ci dica anche che se ha bisogno di personale, perché noi insomma siamo... Ci sono arrivati un sacco di curriculum. No, ma da ieri, chissà perché. Secondo me oggi pomeriggio ne arriva un'altra valanga. No, comunque il prossimo viaggio è tra 10 anni al limite per i 40 anni. Comunque dove andate? Giamaica. In Giamaica, signori. Abbiamo scelto qualcosa di particolare, qualcosa che fosse... Diciamo che non fosse facile, no? Qualcosa che magari non, sicuramente non tutti avevano già fatto, perché no, i Caraibi li avevano fatti, la Giamaica è un po' più particolare. La Giamaica, ma cioè, che non so se avete anche... capito, il capo dell'azienda che porta tutta l'azienda in Giamaica, ma con la famiglia anche, cioè o dipendenti o... La famiglia è spesata da loro, lei paga le spese ai dipendenti e i dipendenti si portano... Esatto. I familiari. Il piacere è proprio la cosa bella anche questa, che vengono tutti con la loro famiglia, con i bambini, quindi è veramente una... Perché è qualcosa che rappresenta che quello che già l'azienda è all'interno del suo ambito lavorativo lo porta anche fuori, perché poi un grande gruppo si frequentano fuori dal lavoro. E questo serve a livello di affiatamento del gruppo, cioè una sorta di ritiro delle squadre, poi è anche un modo di creare, no? Proprio uno spirito No, però Piolanti, lei ci sta raccontando uno spaccato aziendale che non è proprio comune. Adesso non è che bisogna dire dall'altra parte che le aziende siano dei luoghi di battaglia, questo no, in genere c'è una convivenza, si spera, civile, però non è sempre così, i rapporti anche tra dirigenti e lavoratori non è sempre così amicale. Forse non è così, però noi l'abbiamo sempre vissuto in questo modo. Anche perché modo non è una piccolissima azienda, cioè 27 dipendenti, non è che siete in 5, in 6, no? No, però è rimasto questo spirito con cui l'azienda era. Noi siamo nati, io e Marco Pesaresi, siamo due soci che andavano a scuola insieme, hanno fatto un corso sperimentale di informatica e da lì è nata, dopo finita la scuola, la nostra avventura, a parte una piccolissima parentesi di università che chiaramente è solo di due è terminato, ma poi è nato da lì. Però scusi, io devo specificare una cosa però, signor Piolanti, leggo che è successa all'interno di un garage, esatto, di 20 metri quadri. La prima... No, non ce lo dica, perché no, è verissimo. È il nostro tormentone. No, perché deve sapere che è il nostro tormentone, che oggigiorno tutte le grandi idee nascono in un garage, quindi chi non ha un garage non ha chance. Prima sede che avevamo era un garage di poco meno di 20 metri quadri, si alzava la serranda la mattina. Non avevamo neanche i soldi per pagarci le tende quando il sole picchiava sui monitor, che quella volta erano cristalli verdi e arancioni, non erano a colori. Non avevamo neanche i soldi per pagarci le tende, sì, è vero. Va bene, invece avete adesso i soldi, ma giustamente per poter anche regalare questo viaggio. Guardi, io non lo considero, è un investimento. È un investimento sulla qualità di vita in un'azienda. Bello questo. Ci sono tanti modi per investire, io penso che questo, investire nelle persone, il capitale nostro è quello, ripeto, non è inutile, che non è che possiamo ammodernare materiali, macchinari o altro, il nostro capitale è quello, quindi quale modo migliore di farlo rendere al massimo e soprattutto di pensare che le persone quando arrivano a lavorare la mattina non arrivano con lo stress, ma arrivano col piacere, insomma passano tanto tempo nelle aziende. Ma infatti secondo me il punto è questo, modo possibile. Anche il fatto che lei non abbia deciso per esempio di utilizzarlo come premio di produttività, no, porto soltanto quelli che sono stati più produttivi, ma decido, quindi non vado a alimentare la competitività, ma decido che porto tutti quanti perché ci sia un'atmosfera diversa e tutti possano lavorare meglio. Certo, anche chi è arrivato, anche chi è stato assunto quest'anno, no? Non deve aggiungere nulla per convincerci del fatto che è un'iniziativa straordinaria. Noi siamo già convinti a mandare il curriculum, quindi le dico una cosa in tutta sincerità, non ci aspettavamo io e mio socio questo eco, nel senso che per noi era una cosa non è proprio normale. 30 anni, festeggi 30 anni di un'attività, hai un gruppo che funziona bene, vuoi premiarlo, non è una cosa così straordinaria. Guardi, glielo dico veramente in tutta sincerità, non è una cosa così straordinaria, nel senso che è un investimento, come ne facciamo tanti in tante cose. Anche questo, sulla qualità di vita. Ma guardi, noi la ringraziamo, Antonio Piolanti, amministratore delegato Lasersoft, e poi verremo con lei in Giamaica. Questa è la vera notizia. C'è anche Manera adesso. Scusi, a Verò, ma che te serve? Lo dovevi fare adesso. Io te le passo? Ti ho mandato il bigliettino. A Verò, ma che te serve qualche giorno in Giamaica? Avrebbe detto: ma cosa cambia? Uno più, uno meno, 27 dipendenti, la signorina si aggiunga. Ma noi funamboli ci spostiamo almeno in 7-8, e quindi ogni volta. Comunque, grazie Antonio Piolanti. Ma noi sto premio produttività l'eredità dei funamboli. Quando arriva? Prima produci, poi dopo vedremo. Mamma mia, allora, siete così fiscali. Allora, dopo la pubblicità avremo una madre che ha fatto un gesto dibattuto. Ha deciso di denunciare il proprio figlio che era latitante e ha permesso alle forze dell'ordine di arrestarlo. E da quel momento ovviamente il figlio, che è in carcere, non le parla più, la odia. Però insomma è una scelta, come la dobbiamo definire? Non lo so, intanto ascolteremo la sua storia e tra poco. Estrema e molto coraggiosa. Dopo direi. La pubblicità. I funamboli. Allora, sono le 9 e 37 minuti. Veronica, ti ha colpito una lettera, o meglio l'inizio di una lettera dell'ospite della prossima funambola che è qui con noi. Carissimo figlio mio, l'altra mattina ho fatto qualcosa che una madre non vorrebbe e non dovrebbe mai fare. Ho tradito la cieca fiducia che tu da 24 anni riponevi in me, consegnandoti nelle mani di qualcuno che di te non sa nulla se non il tuo nome e le tue bravate. È stato un gesto necessario e inevitabile. Le notizie frammentarie e confuse che mi giungevano durante la tua assurda latitanza mi trafiggevano il cuore e purtroppo non avevo modo di poterti raggiungere, aiutarti a ragionare e a trasmetterti il malessere che stavo vivendo. Questo è solo l'inizio di questa lunga e lettera molto bella. Lettera che Daniela Manzitti da Corato, siamo in Puglia, ha scritto a un sito Corato Live per spiegare perché ha denunciato il figlio Michael, latitante, che così è poi stato arrestato e portato in carcere. Signora Daniela, buongiorno e grazie. Buongiorno. Come dire, noi l'ascoltiamo perché sa, giudicare poi le persone giudicheranno, diranno, però intanto ascoltiamo la sua versione, a capire perché è arrivata a denunciare un figlio, a tradire quel patto di fiducia come lei ha scritto nella lettera. Perché lo ha fatto? Perché ormai dopo 3 mesi ero arrivata a credere che mio figlio fosse ormai perduto, come devo dire, non fosse più in grado di prendere un'iniziativa oppure di mantenersi, di trovare un tetto dove dormire, e tutto quanto. E quindi avevo paura che potesse capitare, potesse andare a finire in mani di gente più spietata e quindi di non rivederlo più o per un motivo o per un altro. Sì, suo figlio era latitante per problemi, credo, di droga, cioè di spaccio, di che tipo di reato? No, mio figlio era latitante per altri problemi. Certo, non mancano le indagini per questa questione, ma insomma era latitante per altri problemi. Praticamente lui era agli arresti domiciliari. Sì. Bel giorno decise di, siccome non riusciva più a stare rinchiuso in casa, prese questa decisione qua e niente. Quando rientrai a casa semplicemente non lo trovai più, aspettammo che ritornasse, ma intanto è evaso dagli arresti. E suo figlio non si faceva sentire durante quel periodo prima che lei decidesse di rivolgersi alle autorità? Mio figlio direttamente no, non si faceva sentire, direttamente non dava notizie, però essendo diciamo il paese molto piccolo, anche tante volte venivano le stesse forze dell'ordine, mi dicevano è tornato Michael perché è stato visto a Corato, è stato visto in centro, chiaro. È stato visto là. Allora io sapevo poi anche da voci che mi arrivavano che lui bene o male girava sempre da queste parti. Certo, senta signora, lei ha fatto il gesto, come dire, più umanamente contrastato per una madre che si possa pensare. Sì. Perché da quel momento ovviamente è stato arrestato, questa volta è in carcere proprio, e mi pare di aver capito quanto tempo dovrà stare in carcere. Sì, e soprattutto l'ha presa malissimo nel rapporto personale, no? Suo figlio con lei. Certamente l'ha presa malissimo, ma penso che era una reazione abbastanza naturale. Spero soltanto che questa reazione, insomma, col tempo, nel più breve tempo possibile, possa rientrare, perché ho bisogno proprio di vederlo, di incontrarlo, di parlare con lui. Lui adesso non la vuole vedere? Insomma, che sia bene. Come? Lui adesso non la vuole vedere? No, lui l'ultimo colloquio che fece con la sua compagna e con l'altro mio figlio, insomma, non sembrava ben disposto a vedermi, cioè evitava non proprio perdonato l'argomento. Certo. Non l'ha perdonata per questo? Ancora no, ma certo. Sono fiduciosa perché mio figlio, insomma, c'è un rapporto speciale con mio figlio. Io tante volte ho anche coperto, diciamo, delle sue bravate, però non si poteva andare avanti così. Prima o poi bisogna fare i conti con la realtà e bisogna ammettere che dove non ce la si fa da soli è necessario l'aiuto di qualcuno. Ma adesso, signora Daniela, lei col senno di poi è contenta della scelta che ha fatto o si sente o colpevole, pensa di averlo tradito o è pentita? Diciamo che il senso del tradimento l'ho avuto subito nel momento in cui l'ho fatto e nei giorni a seguire. Ora questa sensazione di tradimento mi è quasi passata e sapendo insomma che bene o male, avendo notizie sul fatto che lui sta, non dico che sta bene, ma sta abbastanza tranquillo, penso che anche lui abbia voluto questo, ecco, abbia in un certo qual modo abbia compreso e forse abbia anche apprezzato quello che ho fatto. Forse comprenderà, apprezzerà. No, la cosa che mi colpisce è dire, lei per sua stessa missione dice per anni e tante volte ho coperto da mamma, certo, quello che ha fatto mio figlio di sbagliato, però adesso da mamma, sempre da mamma, per proteggerlo ha preso una decisione proprio opposta, cioè basta coprire e affidarlo allo Stato, se vuole, affidarlo a qualcuno che possa anche punirlo per quello che ha fatto. Basta coprire perché, ripeto, dopo 3 mesi che non vedi tuo figlio, che non lo vedi fisicamente, che non gli parli direttamente, cioè diventa un'angoscia paurosa, poi queste notizie che arrivavano non sapevi come prenderle, se erano tutte, certo, vere, se erano tutte false, se erano a mezze verità, e quindi niente, ho dovuto prendere questa triste decisione e tra l'altro è stato, come dire, è stata una cosa, quasi un'illuminazione, quasi una porta che si è aperta all'improvviso, ecco, perché io, certo, non lo so, non avevo proprio programmato di fare una cosa del genere, è successo tutto nel giro di poco tempo. Oltretutto, ecco, forse signora c'è stato anche il motore, perché vedevo che lei ha deciso, insomma, di dire ai carabinieri che suo figlio si sarebbe trovato assieme alla compagna che faceva un'ecografia perché incinta, perché aspettavano un bimbo, giusto? Sì, è stato proprio lì che... Forse anche lì è scattato qualcosa nella sua testa, anche in virtù di... per suo figlio e per il bimbo che sarebbe dovuto arrivare. Esatto, perché io non volevo che questa bambina, questo bimbo che dovrà nascere, insomma, si trovi a crescere senza un padre, oppure, certo, con un padre che magari ha fatto una tragica fine, perché... Perché questa la era mia anche, paura era quella, anche il rischio. Quella di un epilogo. No, guardi, signora Daniela, arriva un messaggio, per esempio, da Cinzia, da Udine, e dice è stato un grandissimo atto d'amore e arriverà il momento in cui anche suo figlio ne sarà consapevole. Noi glielo auguriamo, nel senso che è chiaro che è stata una decisione molto molto forte da madre. Coraggiosa, tra l'altro, sì, decidere di farsi anche odiare. È stato drammatico, è stato devastante per me, devastante, proprio, non lo so, avrei voluto qualche minuto dopo, quando poi lui mi ha detto delle brutte cose, insomma, delle brutte cose, non degli insulti, delle cose brutte che mi hanno fatto male, mi hanno messo paura addosso che lui potesse farsi del male da solo, cioè è stato devastante, certo, io avrei voluto cancellare tutto in quel momento, però ormai non si poteva più tornare indietro. Signora Daniela, noi la ringraziamo per questa testimonianza che ci ha voluto raccontare. Ripetiamo, Daniela grazie Manzitti da Corato ha deciso spero di spero che il tempo le renderà giustizia e la ricompenserà per il coraggio. Devo dire, siamo al momento del traffico. È arrivato anche il nostro Leonardo Manera, il nostro funambolo. Oh, buongiorno. Buongiorno. Ma mi stavo chiedendo ieri sera, Leo, ma il metatarso è tornato concentrato o no? Tutto a posto, sì. Il metatarso va benissimo, non è più distratto. Pensa non che anch'io ieri gliel'ho chiesto, l'ho visto camminare, ho detto, ma come va questa gamba? Mi sembra a posto. Ma non zoppica più, no? No, no, no, è fantastico. Vedi? Sono come un ventenne. Fantastico. Come un ventenne adesso, come un ventenne. 19enne, dai. No, perché vi vengo a trovare, mi sa, tra un po', e vorrei trovarti in forma. Ah, ma per te sono sempre in forma, oh, Veronica. Oh, mio caro. Andiamo al traffico, metti dei violini, Peter, e violini? Il traffico, e poi rientriamo. I funamboli. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. Ma e quindi fatemi capire, uno sventa una rapina e invece di essere premiato viene ritenuto un deficiente perché ha sparato a caso, non ha sparato a caso, ha ferito un ladro e ha sventato una rapina. Seguendo la vostra logica, se io dovessi vedere una donna che viene violentata dovrei chiamare la polizia, dovrei non intervenire. Non è possibile, è un crimine anche quello, come un crimine quello che ha cercato di rubare al banco. Non doveva sparare dal balcone, a Milan sei solo un buonista dei miei pifferi. È diventata l'accusa più infamante, sì, quella del buonista. Buonista, sei solo un buonista. Buonista, vai a casa deve... e dai due schiaffoni Battista, ai figli. Battista, almeno. Diglielo un po' che è un buonista. E se è un buonista, Mila, no? Perché no? È lui coinvolto in prima persona. Certo. Finché capita agli altri le cose, no? È sempre facile fare cose sulla pelle degli altri, capisci, Mila? Mila. Pelle degli altri. Va bene, sì, no, no, ha sventato una rapina. La sventano i poliziotti e i carabinieri in genere le rapine. Cioè, poi ripeto, se uno mi entra in casa e uno spara, se ha l'arma o se ha un coltello, io da quel punto di vista sono estremamente a favore, cioè a dire nella concitazione può succedere, ma se uno apre la finestra e vede di fronte uno che fa una rapina, prende la mira e spara, questo non è consentito dalla legge. Poi voi dite che ha fatto bene, il doveva sparare, centrare il cuore, spappolare il cervello, dite quello che volete. Che il reato di tentato omicidio sia più grave di quello di furto, teoricamente dovrebbe essere un fatto. Però, e poi non capisco bene cosa c'entra il fatto di intervenire o meno se una donna viene violentata. Ma infatti lì doveva intervenire. Doveva intervenire sparando in alto, al limite, chiamando la polizia. E poi se non riesce a sventare il furto, lanci delle cose. Altro discorso è pensare che al posto di un poliziotto, di un carabiniere, prendi, spari, cioè. Pensa se quelli stavano trasportando una cassapanca, un trasloco. Pam! No. Pensavo fosse un banco, oppure funzionari del banco a smontare Dai, io farei delle armi che hanno la canna rivoltata verso l'alto da tenere in casa. Così tu spari, ma spari verso non è vero, l'alto. Non è vero che ha detto questa missione. Ho temuto che dicesse anche altro. Con la canna rivoltata verso, ho detto aia. No, verso l'alto. Così tu comunque spari, alto. Che è una cosa da sempre soddisfazione. Però spari verso Mi l'alto. Mi devono dare la medaglia d'oro al valor civile. Scrive Diego, prego. Dispiace vedere che ci sono stamattina ascoltatori. A chi? Ai ladri, peraltro, è uno, gli devono dare. A chi? Ai ladri, no, penso. Dicevo, dispiace vedere che ci sono ascoltatori oggi così polemici, perché invece in giro venendo qui c'è aria da ponte. Non so se hai visto. Domani è festa a Milano, noi siamo in diretta, ma è Sant'Ambrogio domani. È Sant'Ambrogio, le persone sono un po' più tranquille, ma. Questi giorni c'è un argomento che ronza dentro la testa di Alessandro Milan, me ne sono accorto in questi giorni. Ronza dentro la testa di Alessandro Milan e addirittura rimbomba dentro quella di Veronica Gentili. Non so se avete capito che cos'è questo argomento che ronza e rimbomba nelle vostre teste. No. Ne parlano poco loro due sommessamente, ma ho capito che l'argomento interessa. L'argomento è liberi e uguali. Che ronza e rimbomba. Rimbomba. Il nuovo movimento capitanato dal presidente del Senato Pietro Grasso, che raggruppa altri movimenti e partiti alla sinistra del PD, cioè potenzialmente tutti. Ma adesso per fortuna è nato questo nuovo movimento di sinistra, Liberi e Uguali, il che pone immediatamente due domande. Liberi da cosa e uguali a chi? Io di notte ci perdo il sonno. Liberi da cosa, uguali a chi? Già affermare che qualcuno è libero è sempre pericoloso, perché se hai bisogno di dirlo vuol dire che un pochino hai la coda di paglia. Ma vediamo da cosa la lista Liberi Uguali potrebbe essere libera. Libera, per esempio, dai condizionamenti della vecchia politica. Bello. Solo che dentro a Liberi Uguali c'è anche Massimo D'Alema, cioè quello che fino a qualche anno fa Matteo Renzi voleva rottamare. E adesso, per una strana inversione dei ruoli, è Massimo D'Alema che con Liberi Uguali vuole rottamare Matteo Renzi, ponendosi come uno dei campioni della sinistra. Ma dico io, D'Alema non era uno di quelli a cui Moretti, anzi era quello a cui Moretti diceva di qualcosa di sinistra, di qualcosa di sinistra, che peraltro non arrivava mai. E adesso, per uno strano, incomprensibile scherzo del destino, ce lo ritroviamo come campione della sinistra popolare, campione della libertà, libertà dagli schemi della vecchia politica, di cui appunto D'Alema è stato indiscutibile rappresentante, non della libertà, rappresentante della vecchia politica paludata. Io giuro che mi sforzo, sono mentalmente limitato, lo so, lo ammetto, ma proprio non ce la faccio, capire, non riesco. E poi uguali, che è una bellissima dichiarazione di intenti, ma purtroppo in tutti i posti, in tutte le situazioni dove si dichiara l'uguaglianza, poi quasi sempre rimane una dichiarazione di intenti. L'uguaglianza non esiste neanche in tribunale, figuriamoci in politica. E poi uguali a chi? Sono uguali fra di loro, sono uguali ai cittadini che vorrebbero rappresentare, sono uguali a prima, nel senso che non è cambiato niente, sono uguali a se stessi, sono uguali a quelli rispetto ai quali vorrebbero essere diversi. Uguali è una parola talmente vaga che può essere tutto e niente, però è bella. Per chi hai votato? Ho votato per Liberi e Uguali. Poi però, quando io mi trovo D'Alema tra i leader di Liberi e Uguali, so già che non potrò mai essere uguale a lui. Che un po' è anche un ossimoro, perché se sei libero non puoi essere uguale, se sei uguale non puoi essere libero. Ma tant'è. Ormai la politica è fatta di suggestioni, di retorica, di rancori, di promesse, di annunci. Io personalmente avrei votato più volentieri un partito che si chiamava Confusi e Diversi, così come mi sento io. Vabbè. Confusi e diversi. Confusi e diversi, liberi e belli. Senti. Io so che Veronica è appassionata, rimbomba, di senti queste come cose. Rimbomba. Respirazione bassa. Rimbomba. C'è Alfredo da Vicenza. Tu continua. Continua, Veronica. Alfredo da Vicenza. Non disturbi. Cerchi di parlare con un tono un po' basso, che disturbiamo. Alfredo? Ci sono. Prego. Buongiorno. Vada. Allora. Buongiorno, meccanismo Alfredo. Delle sedi disagiate. Sì, prego Alfredo. Meccanismo delle sedi disagiate fu inventato per sopperire alla mancanza di presenze nei posti, no? E pensiamo a tante sedi del meridione e anche non assai pericolose in cui i magistrati non vanno volentieri. Tutto nasce dal fatto che il magistrato non può essere trasferito d'ufficio, deve andare solo su domanda. Sì. Allora, questi posti vengono coperti per prima cosa con i nuovi assunti. Quando uno vince il concorso in magistratura, deve scegliere il posto in cui andare. I primi della classifica, quelli che sono stati più bravi al concorso, si scelgono i posti migliori. E gli ultimi tocca scegliere, però sempre scegliere personalmente, volontariamente, le sedi più brutte. La prima cosa che fanno in queste sedi più brutte è quella di presentare domande di trasferimento, però per legge non è possibile. Alfredo, farla ma ci fa la cronistoria, ma per arrivare a dire, cioè, è giusto, è sbagliato, ha un'opinione. Allora, cosa succede? Vi sono alcune sedi che non riescono a coprire e altre che sono lì. Lì i magistrati talora fanno come i terzini, no? Scattano in avanti e creano il fuorigioco. Vabbè. Ma cosa sto dicendo? Sto dicendo che se due magistrati in un tribunale se ne vanno, diventa automaticamente sede disagiata. Sì. Tutti gli altri presentano domande, vanno lì e prendono una retribuzione di molto superiore. Vabbè, capito? Alfredo, dobbiamo andare al giornale radio. Abbiamo capito, ci ha fatto la cronistoria delle sedi disagiate. La ringraziamo per aver colmato questa lacuna. Gli ascoltatori didascalici sono quelli che ti chiamano a spiegare alcune cose. Questa è la polemica sterile di Alessandro Milan rispetto a certi ascoltatori. Per sottolineare la tua carenza nello spiegare le sedi disagiate, ha detto serve fare un'integrazione. Esatto. Perché se siete ignoranti, intervengo io. La conduzione è scarsa e quindi va bene. Seconda ora di Funamboli dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. I Funamboli. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Sono agghiacciato, ma cosa è successo agli italiani? Ma cos'è sto modo di ragionare? Ci hanno cambiato la testa. Cioè, io sparare alla gente aprendo una finestra così, ma io, già che uno paragoni la violenza sessuale a un furto del bancomat, cioè abbiamo dei problemi. Se dovessimo sparare contro quelli che fanno reati, anche non contro le persone, è peggio del Far West. Come faccio a essere io uguale a D'Alema e a Bersani se loro hanno il vitalizio e da buoni di sinistra non lo lasceranno mai? Scampoli di nostri ascoltatori, il nostro patrimonio, il nostro pubblico, il pubblico dei Funamboli. Però è strano siete che siete il bastone della nostra vecchiaia. No, vecchiaia parla per te. No, pochi anni, solo per te. In pochi anni è veramente cambiato il modo di pensare. Adesso molti pensano che per qualsiasi tipo di reato sarebbe giusto sparare alle persone, insomma. Sì. Forse è un po' esagerato. Io capisco che sia comunque una cosa grave, ma insomma, cioè, c'è sempre un modo di rapportarsi ai problemi. In questo caso non è che era un furto in casa, non è che gli sono entrati, cioè proprio di fronte. Adesso io non so la distanza, di fronte ha aperto la finestra e ha del visto. Census. Vabbè, ma non è che io adesso, se ho rancore, sparo a una persona. Rapporto del census. Va bene. Rapporto del census. No, ma io dico, uno può rileggere il rapporto del census e dire: ma io mi riscontro in questo profilo, quindi sono giustamente incazzato nero perché in questa crisi mi ha messo duramente alla prova. Sì, risolvo questa mia incazzatura, il mio conto in banca migliora, la mia posizione sociale migliora se detesto il mondo o decido che sparo random. Forse no. Vabbè, però sai che invece migliora perché ti fa stare bene questo odiare il prossimo. Fa stare bene, fare ma cose che fa stare bene. Dottore, ma sparare dalla finestra come ti fa stare? No, adesso al di là di tutto, perché poi no, giusto, problema c'è, alcuni anche si offendono, è vero che è un problema serio, però c'è sempre una misura nelle cose, ecco. Io penso che sparare a uno dalla finestra sia veramente eccessivo. Comunque c'è Gianni da Modena, ci chiama. Gianni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora, come dicevo prima, posso parlare? Come no? Allora, come dicevo prima, guardi, io faccio un mestiere che sono per la strada tutti i giorni. Se io con la macchina investissi un ragazzo, anche se ho mille ragioni, non sarei più io. Se invece io sparo uno in casa mia, io ho un'età, adesso che due giovani di vent'anni a me fanno paura, una volta non mi facevano paura, adesso mi fanno paura. Due giovani di vent'anni, disarmati, in casa mia, io ho la pistola e sparo, anche perché ho due porto d'armi, uno che è un nulla osta, che c'è scritto difesa personale, lo dice lo Stato, e l'altro invece per il tiro segno, ha capito? Sì. Perciò, e poi chiederei un'altra cosa, perché non fanno un referendum su queste cose? Ma il referendum è su quale cosa? No, un referendum da dire chi vuole. Chi dice sì, i referendum, come sai, in Italia sono abrogativi, quindi possono abrogare, sì, togliere, ecco, una questo, legge. Cioè. Dico, quello il referendum può, consultivo. Consultivo lei vorrebbe, su cosa? Su dice cosa? Sull'armarsi in casa? No, su che uno in casa mia, che viene dentro dalla finestra e io gli sparo. E io gli sparo. Ma guardi, su questo. Ma non c'è da fare un referendum, però. Se legge, lei ha. Può, nel senso, se lei ha la detenzione, no, di un'arma, capisco, e viene capisco, aggredito, certo. Capisco quello che vuol dire succedere. Gianni. E cioè, se uno mi entra in casa, ovviamente con intenzioni bellicose, e gli sparo, e su questo io sto con Gianni, non voglio neanche avere un processo se uno è venuto ovviamente a aggredirmi e a rubarmi. Su questo io sto con Gianni. Su questo la vedo, come dire, e peraltro l'avvocato Buongiorno che abbiamo avuto ha detto che bisognerebbe cambiare la legge, non è certo una, come dire, aggressiva, cambiare la legge per cui nel momento in cui io violo la proprietà privata con tono aggressivo, ovviamente per una rapina, un furto, è legittimo sempre e comunque difendersi, se uno ha un coltello, se uno ha un pugno, se io uno ha una pistola. Io non la penso pistola. Come te, credo che sia giusto difendersi e credo che sia giusto che ci sia un processo che infatti nei casi in cui è giusto difendersi permette, penso, come ho detto l'altra volta in maniera un po' così alterosclerotica, mi ripeto, il fatto che ci sia invece un emendamento nella nuova legge sulla legittima difesa che preveda che le spese, abbiamo ospitato l'oste di Lodi l'altro giorno, sì, ma secondo me non dovrebbe esserci proprio il processo, cioè, questo però è molto cioè, delicata come questione, sì, altrimenti no, sì. ci andiamo a inerpicarci in un sentiero un po' ostico. Perché capire, come il discorso del grave turbamento, capire in quella situazione se si interviene in una maniera eccessiva, spropositata, e ne abbiamo avuto tanti esempi. Per me non esiste, per me, ma questi sono pareri, non esiste in quel caso, se uno mi entra a fare una rapina, non bisogna disquisire come ero, stava scappando, sì, ho reagito eccessivamente. È entrato in casa, cosa che non deve fare. Fatto che non ci sia un processo. Ma siamo sicuri che tutti questi italiani siano così bravi a usare le armi? E questa è un'altra questione. Il discorso che poi bisogna vedere, perché tutti pensano di risolvere il problema, ma in realtà non è così, perché poi magari si finisce per essere anche ammazzati usando un'arma che non si sa usare. Ma infatti io l'arma non ce l'ho, e se mi trovassi con un ladro in casa soccomberei sicuramente, perché non, cioè, ma lo dico come principio assoluto di quello che penso, non di quello che farei io che non ho un'arma. Per esempio, secondo voi, uno che scrive un messaggio con scritto "se vedo uno che violenta la Gentili mi giro dall'altra parte", esattamente nel cervello che cos'ha? Ma no, segatura, me lo chiedo. Ma nemmeno non dovresti, segatura, non... perché e quindi poi ritorna il censis, no? Cioè, mandare il messaggio astioso quando uno c'ha la rabbia nel petto, augurando il male magari, al prossimo, adesso si sente meglio perché io l'ho letto. Sì, forse sì. Forse perché sì. Uno non augura forse il male sì. a nessuno, io non auguro purtroppo a nessuno di venire rapinato mai dentro casa nella vita. Spero che non accada, spero che non ci sia un ladro che muoia e che la persona non passi la vita con i sensi di colpa, perché poi chi pontifica da fuori non sa come sta chi ha sparato, e mi auguro che queste cose non accadano. Però sputare un po' di veleno, un po' di schifo sugli altri sicuramente fa stare bene. Non lo so, fa stare bene anche, no, la vendetta. Dai, all'800240024 se volete chiamarci. Ora vogliamo affrontare un tema che è un tema un po' più leggero, ma comunque se volete parlarci dei temi affrontati, anche della legittima difesa, fatelo. Comunque vogliamo dare il benvenuto a Luca Leoni, che è il nostro prossimo funambolo. Buongiorno Luca Leoni. Ciao, buongiorno. È ciao, fondatore buongiorno. Di un'agenzia? Sì. Mi sento un po' un funambolo, sì. Passare da questo. No, no, ma noi siamo così. Ma... No, ma tra l'altro passiamo al web, che è un'arma. Comunque. Esatto, anche il web è un'arma. Fondatore di Showreel, è un'agenzia creativa che cura i guadagni pubblicitari di persone famose sui profili social, perché ormai sui social si può anche guadagnare, questo lo sanno magari le star, quelle che hanno centinaia di migliaia di follower su Instagram, su Twitter. E pone anche tutta una serie di problematiche. E intanto, quando si è capito che si poteva iniziare a guadagnare anche con la propria immagine sui social, Leoni? Guarda, noi siamo nati 10 anni fa. In realtà noi siamo nati in un momento in cui YouTube non era neanche arrivato in Italia. Provavamo già a investire sulla creatività, perché in realtà noi investiamo sulla creatività, sui format e anche sui talent. Siamo nati in un momento in cui la televisione versava, invece il web cominciava a conversare, e lì, essendo figli di nessuno e con 0 lire in tasca, ci siamo lanciati in questa avventura, cioè un luogo in cui si potevano sperimentare dei format. E quindi da allora ad oggi sono cambiate tantissime ma cose. Ma che si intende per format, Luca? I format, sì. ogni allora faccio un passo indietro. Ogni canale di un noi li chiamiamo creator, cioè quindi il Facebook o l'Instagram di Sofia Viscardi in sé ha una serie di format, come se fossero dei format televisivi, banalizzo, come se fossero dei format televisivi, quindi dietro il video che tu vedi su YouTube, su Facebook o su Instagram c'è comunque una scrittura, c'è una linea editoriale da seguire. Infatti per me io definisco Showreel più una media company in questo momento, perché perché al posto della televisione, sì, perché al posto della televisione ci sono i social. All'interno di questi social ci sono i canali, cioè, come faccio un esempio banale, Mediaset ha canale 5, Italia 1, Rete 4, all'interno del social di un talent, di un creator, ci sono N canali e quindi N format rivolti a determinati target. Sono stato chiaro. Certo. Facciamo così, riprendiamo tra un attimo, Leoni, perché c'è il traffico e poi ci spieghi. Le domande perché... sono tante ancora. No, anche perché la questione è molto seria. Per esempio, in America hanno fatto una legge e si discute anche in Italia, l'antitrust hanno fatto anche dei consigli molto espliciti l'antitrust a dire ditelo Stars e fate delle pubblicità, perché sennò rischiate di ingannare perché le esiste persone. Ancora un vuoto normativo sul tema rispetto alle pubblicità, ai marchi, ai brand, certo. No? Tra quindi, un attimo riprendiamo. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta i funamboli. Allora, stiamo chiacchierando con Luca Leoni, fondatore di Showreel, agenzia che aiuta molte persone, adesso ci dirà anche chi segue. A monetizzare. Però io sono, che ne so, una star. Fare intrattenimento. Lo so, però io sono una mega star, ho 3 milioni di follower su Instagram. Fai meno, figurativo. Metto un cappello di una certa marca, che devo dire, che devo comunicare, devo dirlo? Certo, ma assolutamente sì. Guarda, però finora non era così, Luca, cioè fino a qualche tempo fa c'erano moltissime quelle che si chiamano pubblicità occulte, no? Ma questo dipende naturalmente chi le fa. Chiaro, chiaramente. Però secondo me la prima cosa che bisogna valutare in questa roba è il rispetto della community, perché la community non sono solo numeri, ma sono persone che ti seguono. E quindi se tu manchi di rispetto e non sei diretto nei confronti della community, perdi la tua community, perdi la fiducia nella tua community. E quindi, almeno quello che noi abbiamo sempre fatto fin dall'inizio era, nel momento in cui non c'era la possibilità di, come oggi, se c'è la possibilità di scrivere, adesso vi spiego che c'è un'opzione all'interno dei social dove puoi dirlo, nel momento in cui non c'era questa pratica, noi abbiamo sempre consigliato ai talent di palesare nei primi 30 secondi del video, ovvero sto collaborando con il brand X e grazie a questo brand faccio questo video. Perché? Questo è chiaro, ti investono, no Luca? No, Luca, in molti hanno bisogno di te. Sto andando in stazione e stavo per farmi molto male. No, non lo facciamo, ma ti posso chiedere una cosa, la community di cui tu parli, no? Se dovessi fare una specie di decalogo di come si crea una community, cioè delle regole base che si utilizzano per avere un pubblico esteso e poter lavorare attraverso i social. Guarda, prima di tutto capire a chi ti rivolgi. Ok. Però tu dicevi che una stessa persona può rivolgersi a target diversi. Può rivolgersi, allora, ci sono vari modi di comunicare, vari stili, a seconda della piattaforma che utilizzi. Per esempio, faccio un esempio, stamattina guardavo il profilo di Veronica e Veronica ha almeno su Instagram e su Twitter ha due modi di comunicare totalmente differenti, pur avendo lo stesso tipo, tutta la stessa tipologia di target, ha due modi di comunicare. Ti ha subito studiato. No, infatti, ho capito. Credo, Luca, che io sto per telefonarti dopo, te lo dico. Tu non andare. Non andare sotto alla tram lì perché ti devo un attimo. No, perché Luca Leone devi capire che nella nostra rubrica Però che te serve deve rimediare sempre qualcosa ogni giorno. Sì, oggi potrebbe rimediare un nuovo consulente. In questo caso, certo. No, io vorrei capire una cosa, però. Quanto si guadagna? Cioè, quanto una star e da quando può iniziare a dire ok, posso monetizzare la mia immagine? Nel momento in cui diventi interessante per la community e nel momento in cui quella cosa stabilisce dal numero di numeri. Ne parlavo l'altro giorno con un giornalista di Repubblica che mi faceva la stessa domanda riguardo ai numeri, riguardo al fatto che si dice che molte persone comprino dei numeri. Io gli ho risposto che prima di tutto è assolutamente inutile spendere dei soldi in numeri, perché se quei numeri poi non generano interazione, quello è un pubblico morto, sono dei numeri. Quindi certo. Tu devi essere in grado di generare un'interazione, quindi dell'interesse. Quindi per rispondere alla tua domanda, se ho 1 milione di follower, ma la mia community non commenta e non condivide il mio messaggio, io valgo zero. Posso valere anche qualcosa se ho 10 follower e quei 10 follower puntualmente condividono e rendono, diciamo, sì, virale. Sì, perché a quel punto uno diventa il classico influencer, cioè uno che se fa qualcosa può influenzare. Se ho perso un attimo non ho capito. No, dico, in quel momento uno diventa un influencer, quello che si suol dire. Cioè, diventa un influencer, ma un influencer lo sono sempre stati tutti, ma su altri media. Frello è stato un influencer, certo. Lo è un influencer, come Paolo Bonolis su altri media. Quindi non, diciamo, la sostanza non cambia. Cambiano solamente i mezzi di comunicazione. No, diciamo che, Luca, correggimi se sbaglio, l'illusione che si crea adesso è il fatto che non esista più un'intermediazione. Quindi prima tu vedevi Fiorello in televisione, potevi seguire il suo suggerimento o tentare di emularlo, ma non avevi la sensazione di un filo diretto. Nel momento in cui adesso io sui social, su Instagram, seguo una fashion blogger, ho l'illusione di avere una specie di link diretto con lei e fare quello che... No? Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma infatti le community chiaramente che sono sicuramente, tranne Chiara Ferragni naturalmente, che fa dei numeri incredibili, certo. Le community sono notevolmente più piccole rispetto ai numeri che faceva la televisione un tempo. La sensazione è che è anche giusta, che ci sia un filo diretto, ci sta, e in parte è anche vero, nel senso che comunque l'analisi della community fatta direttamente dal talent e anche da diciamo la parte editoriale che segue il talent è fatta costantemente, perché a differenza della televisione il web è un luogo in cui tu puoi studiare e colloquiare con la tua community e quindi anche capire cosa va e cosa non va. Va bene, comunque Luca Leoni, l'indirizzo di Veronica Gentile te lo diamo a parte. No, ma adesso tanto lo chiamo, non hai visto che scrivevo sul telefono, stavo apputando il numero, ve lo giuro che non sto scherzando. Dalla scaletta, va bene. È una versione meno mediata del testimonial televisivo. Eh sì, ma è chiaro, è molto più volevo fare diffuso. Un annuncio a chi vive con me, che da questo momento abbiamo una nuova figura in casa del Luca Leoni. Attenzione, lo sappia. A chi vive con Veronica Gentile? Vivo, potrei vivere con papà. Con un gatto, amica, con una sorella, con un gatto. Io infatti ho detto, ma chi vive con Veronica Gentile? Punto di domanda. Mi lasciamo con questo. Luca Leoni, grazie intanto per essere stato con noi, fondatore di Showreel. Allora, c'è Mario che ci chiama da... Attenzione però, prima di Mario, guardate che non è che ci siamo dimenticati, ma voi avete anche l'opportunità qui ai Funamboli, solo qui nel mondo, di fare la vostra polemica sterile. Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Ricordatelo, per cui avete una polemica sterile, eccoci qua. Non è vero, canta anche l'inno. Mario da Pavia. Eccolo. Eccolo Mario. Non è una polemica sterile la sua, no, vuole intervenire. No, magari. No, però ne può fare due allora, una non sterile e l'altra la sterilizziamo. Intervento, vabbè. Sentiamo di farla non sterile, poi vediamo come va. Allora, parlavate dell'opportunità o meno di rispondere ad un'aggressione in caso di così di qualcuno entra in casa. Sì, sì. Io ho avuto un'esperienza 10 anni fa, mio malgrado, sono stato rapinato in casa, rapinato e picchiato di mia moglie. Ho avuto questi ospiti per un'ora e mezza in casa e alla fine, e ve la faccio breve, volevano bruciarmi. Accidenti. Sono sempre stato e sono ancora convinto che le armi non vadano usate. Ma se dovesse venire qualcuno in casa mia con fare sospetto, temo proprio che userei la pistola. Guardi, io Mario su questo, ripeto, sono totalmente, cioè la capisco totalmente, cioè, tra l'altro si sente a distanza di 10 anni ancora il fatto che che non è per nulla e mai sarà dimenticata una vicenda così... Non è facile, quando mi capita di parlare con delle persone dico sempre lasciate le armi dove sono, consiglio agli altri di salvarmi dove sono, però non so, ecco, cioè non è lo dice, a dirlo, sì, a dirlo, lo dice a dirlo, ma è convinto parlare, a metà a parlare, parlare. Ecco, Mario, lei è proprio una di quelle persone che ha in diritto di parlare su questo argomento molto più di tutti noi, credo, di moltissimi di noi che parlano così, tentando di intuire, no, come ci si comporterebbe in queste situazioni, mentre lei ha veramente tutti i diritti e tutta la cognizione della cosa. Sì, al di là di questo, ripeto, al di là di questo, chiaramente, poi lei diceva una cosa molto giusta. Io stesso, prima di subire la pena, ho frequentato un poligono, andavo per divertimento, certo, con degli amici a sparare. Non ci prendevo ma neanche a due metri. non a... È difficile. Però, voglio dire, quindi sei in casa, in genere quando c'è la rapina non te l'aspetti, quindi non te l'aspetti. Gli altri sono armati o comunque sono ben preparati. Sono capaci. Cioè tu sei debole, sicuramente sei debole. Però la disperazione di prendere forza, tirare fuori la pistola e comunque dire: senti, guarda, se proprio devo fare, io provo a spararti, perché io me la sono vista veramente brutta. Io a un certo punto ho guardato in faccia, cercato di guardare in faccia mia moglie e volevo dire: questi qui sparatemi, perché morire bruciato non mi piaceva, insomma. Certo. Passare da lì non è bello. E quindi, ma quindi lei aveva a quei tempi aveva in casa una pistola? Io avevo una pistola che non ho usato, perché io quando sono stato aggredito sono stato proprio preso mai in un attimo me li sono trovati davanti, e abito in una casa isolata in campagna così, e quindi e mai avrei pensato di essere rapinato. Al furto ci pensavo, ma la rapina in casa mia io certo. Proprio, E quindi quando mi sono trovati davanti io ero intanto ero morto di paura, vabbè, ma questo non è importante, ma assolutamente impreparato, quindi quelli sono preparati. Mi era successo, vi dico una cosa, credo che possa contribuire. Sì. Qualche mese prima io ho l'allarme in casa, mi era partito l'allarme. E allora di notte, sento l'allarme, butto via le coperte, in mutande, prendo la pistola, la pila dall'altra parte e giro per casa, mia moglie dice: ma cosa fai? No, io voglio vedere se c'è qualcuno. Poi un giardino, guardo verso il giardino, vado in giardino in mutande e piedi scalzi con la pistola e la pila, e a un certo punto sento partire una macchina a fari spenti e andava, cioè evidentemente questi ma è diverso. Ma queste persone le hanno prese poi, cioè come è finito? No. Devo dire che, lasciatemelo dire, approfitto del mezzo radiofonico, che i carabinieri mi sono stati vicini in un modo incredibile e a distanza di 10 anni lo sono ancora. Ecco. Cioè, io ho avuto un appoggio da parte loro che non è immaginabile. Mario, noi la ringraziamo per questa testimonianza che ci ha voluto condividere. Grazie davvero, un racconto molto intenso, grazie. Allora, dobbiamo andare alle informazioni sulla borsa, se volete dire la vostra polemica sterile, poi ci sono tra poco i furbi, ci siamo tutti, insomma, state con noi. Quelli già c'erano, siamo sì, qua. Sì, certo, no, ci sono da noi, ecco. I funamboli. Allora, siamo qua alle 10:37 minuti. Devo dire che questo racconto dell'ascoltatore mi ha colpito. Molto, no, soprattutto a un certo punto si è incrinata la voce e sono passati 10 anni. Certo, una persona che si trova in casa dei delinquenti che ti vogliono bruciare, insomma. È terribile. Allora, direbbe Alessandro Milan, questo è il bello della radio. Sì, così bello nel senso delle testimonianze. No, avere la possibilità di raggiungere persone che magari altrimenti non raggiungeresti, avere dei racconti. Ma è così, è il vero della radio, ti direi anche, il vero, la vita reale delle persone. Perché dovete sapere che il pomeriggio lui ogni tanto pontifica Don Milan e mi dice: vedi Veronica, tu devi capire, questo ragazzi, è il bello della radio. Pensate io che vita faccio. La radio è figa, bella e giovane. Cioè, giovane la radio? Mica come la TV. Giovane è il mezzo più antico e più giovane, frizzante, vibrante. La verità vera: a te la radio piace per un motivo unico, perché non mi si vede. Esattamente. Guarda, che non lo dire con come quel ciuffo, non dove lo dire, diavolo pensi di andare? Non lo dire come cosa secondaria. È vero anche quello. Insomma, ognuno deve fare i conti con se stesso. Che devi fare? Beddusi. Allora, per esempio, molta gente ci scrive alla mail funamboli@radio24.it le polemiche sterili. Ce ne sono alcune che vorrei leggervi. Per esempio, quelli che agli incroci fanno i fenomeni per passarti avanti e poi vanno pianissimo. davanti a te. Questa è una polemica abbastanza sterile. Okay. Io lo faccio sempre, quindi non, esatto, non voglio esprimermi su questo. Cioè tu rallenti apposta proprio. Supero e poi rallento, sì. Cioè. Vabbè, questo cioè, è una polemica veramente più che una polemica. Mi è successo tra l'altro qualche anno fa che l'avevo fatto veramente e quello che avevo superato poi appena si è allargata la strada mi ha superato e mi ha bloccato, è sceso dalla macchina. Con un creak. E in bresciano, perché ero in provincia di Brescia, mi ha detto te proviamo a fa giù de che scherzi ti le e te ve più a casa. Cioè prova ancora a fare quegli scherzi lì e non torni vai più a casa. Questo per Veronica Gentili. Grazie per la sua tutti coloro che non immediata sono bresciani, vabbè. E poi c'è vabbè, adesso togliere il voto agli over 65 perché prendono già la pensione, che non rompano i bip. No, questa è proprio una polemica sterile, sentire, o pensione o voto. È una stupidata, una stupidata. Anzi, teoricamente a quell'età si vota con più cognizione di causa. No, però devo no? dire, io la devo. Allora, a questo punto, la polemica sterile. Quando sei in macchina, c'è uno al semaforo, un semaforo, non so, che dura poco, il verde, no? Classico. E tu hai tre macchine davanti e dici ce la farò a passare. E quelle tre macchine, siccome loro sanno nella loro psicologia che tanto loro passano, perché tre conoscono quel semaforo, partono piano, vanno tranquilli, tanto dicono io passo, e tu dici ma io sono quello dopo, vai, agevolami, aiutami, passa, vai, sprinta un po'. Quindi loro passano giusto per farti beccare il rosso, tanto loro sanno, egoisti, che loro sanno perché godono di questa godono cosa. Leo, di questo. Leo, scusami, ma quando tu hai pensato proprio alla rubrica sulle polemiche sterili, avevi in mente lui? Cioè, no, tu avevi in mente un tuo pomeriggio con lui, un pranzo con lui, e hai detto che posso fare perché lui abbia uno sfogatoio. Questa, ecco, questa sono è d'accordo peggio sulla di quelli goduria che si fermano davanti e esitano. Però è vero che in macchina altri che godono. Sai qual è un altro dei maggiori godimenti per gli automobilisti? Sì. Quando tu cerchi parcheggio, vedi uno che è lì fuori dalla macchina e speri che lui parta, e invece lui col dito fa: no, non sto andando via. E lì lui gode, secondo me. Oppure dice: sto andando via, ma coi miei tempi, un quarto d'ora lì, controllo il telefonino. Ma vuoi negare invece, Leo, che quando glielo fai tu, no, col dito, godi anche tu come un antilope? Vai avanti a cercare parcheggio. Mi dispiace, guardi, l'ho trovato proprio adesso, era due ore che giravo. Quante polemiche sterili, mamma mia ragazzi. C'è il momento dei furbi? Dei furbi, eccoci qua. Defurbizziamoci. C'è Ubaldo che ma chiama. L'avete letto un messaggio che è arrivato all'inizio dicendo: ragazzi, proprio una bellissima trasmissione, peccato la sigla. Peccato la sigla quale? Questa? Non lo so. Non lo so. No, la sigla iniziale è stupenda, insomma, la sigla questa. Non so dire, credo fosse la mitragliata, perché non lo sappiamo che ormai è, no? Ubaldo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, che ha combinato? Volevo raccontare un fatto di quando ero anche meno che adolescente, diciamo per fine degli anni 60. Sì. Su 14-15 anni. Allora con degli amici, mio fratello, andavamo a Vallelunga, all'autodromo, quando c'erano delle gare ovviamente, ci mettevamo lì naturalmente senza, non avevamo soldi per pagare il biglietto, e quindi ci mettevamo ai cancelli di entrata, e chiedevamo di farci entrare, insomma li prendevamo un po' per finimento. Sì. A volte riuscivamo ad entrare, altre volte quando questo non avveniva cavalcavamo il muro di cinta dell'autodromo. Una volta entrati cercavamo i biglietti che gli altri avevano gettato per terra, quelli d'ingresso, biglietti d'ingresso, e vedevamo qualche minuto, 10 minuti, 15 minuti di una corsa così, e poi uscivamo dai cancelli di entrata, chiedevamo una contromarca del biglietto per poter, così ci permetteva di poter rientrare. Invece di rientrare, vendevate i biglietti. Cioè, ma questo andavamo l'ha fatto anche un altro parcheggio, li vendevamo a prezzi ovviamente minori ai nuovi arrivati. Che ha fatto anche un altro ascoltatore a Monte Carlo, lo faceva, no? Cioè, ma poi mi sa che c'era proprio un business, credo. Sì, perché eravate in tanti. Cosa, sì. Se vi foste messi d'accordo, ragazzi, potevate fare Ocean Eleven. Io più che altro è la primogenitura, perché negli anni 70 non so se facessero in molti. Più che altro ho capito perché molti organizzatori di eventi falliscono alla lunga. Sì. Ecco. Oppure hanno fatto dei biglietti a prova di truffa. Vabbè, ma cioè voi non solo contenti di essere entrati gratuitamente, poi uscivate e vi facevate pure la giornata con i soldi. Sì, beh, la giornata, oddio, facciamo i soldi per andare al cinema. E vabbè, ecco, buttali via. A 14 anni. Uno si porta avanti. Qualche volta rimanevamo dentro se erano, diciamo, gare di cartello, Formula 2, Formula 3, o moto. Sì. Altre volte invece. Senta, Ubaldo, e poi quando siete passati allo spaccio di banconote false, come è andata? Cosa è stato che vi ha spinto alla banconota? Poi? Non lo so. Lei ovviamente non ha dormito, Ubaldo, in tutti questi anni, non si è più dato pace. Come no, certamente. Lei adesso è in cura alla casa del sonno per cercare di recuperare la sua coscienza. Però per fortuna sono arrivati. Immagino per che fortuna, per fortuna i funamboli sono arrivati e possono, come dire, ridarle una verginità, caro Ubaldo. Eccolo a qua. Colpi di mitra. Defurbizzato. Eccolo qua, defurbizzato. Caro Ubaldo, la ringraziamo. Grazie di questo intervento. C'è Juan. Da Pordenone. Buongiorno. Juan, non facciamo incominciare il nome. Juan. Eccoci. Sì? Pronto? Il navigatore. Dica, Juan. Sì. Pronto? Io la sento, non la sento. Noi invece. Noi la sentiamo, ecco. Vada. Adesso la sento. Ecco. Io faccio la polemica sterile. Se no un po' con lei, Milan, perché vede, mi ricorda quei politici, no? Che quando cominciano sono umili, gentili, comprensivi, ascoltano gli altri. Poi diventano famosi, fanno il salto di qualità e diventano un po' tronchi, hanno sempre ragione loro, non lasciano parlare, non lasciano finire un concetto e pensano di pontificare anziché fare del giornalismo. È giusto. Mi collego poi al discorso dello sparare o meno. Sì. Da cosa nascono le leggi? Nascono dagli usi, consumi, costumi, dal modo di pensare. I giudici, come anche chi la pensa come lei, sono lontani dal pensare della gente di oggi. Oggi la gente è d'accordo con chi spara, perché non ne può più. Io no. Cioè, nel senso ho fatto delle distinzioni. Comunque, non so, non vorrei pontificare, quindi possiamo non dare nulla. Un altro paio di minuti a Juan, così compensiamo la tua dittatura. Lo facciamo parlare un po' lui, un po' il navigatore. Va bene, esatto. E così compensiamo un pochino e tu ti cospargi il capo di cenere perché sei diventato tronfio, saccente. Tronfio, parli solo tu mentre la gente cerca di dire la famoso, sua. Famoso, soprattutto ho scoperto di essere famoso. Vedi quanti errori. Però ha detto che era una polemica sterile. Faccio una polemica sterile. Quanti abbracci! Grandissimo. Ha da pensato Pordenone. Che potesse interagire meglio con te su un terreno comune con la polemica sterile, no? Dai, andiamo al traffico. I funamboli. Solo un cretino non può capire che più armi ci saranno in giro in questo paese e meno saremo sicuri. Milan, per me ha fatto bene quello che gli ha sparato, perché così gli ha fatto capire che ne abbiamo tutte le palle piene di questi tutti extracomunitari. Sarei favorevole alla candidatura della cara Veronica nei liberi e uguali, sarebbe super votata e poi stare accanto a Baffino, un onore. Accanto a Baffino. A me sembrano tutti Anacleto, io non so come fare. No, adesso non tutti i toscani. No, purtroppo c'ho un attimo una passione per Anacleto. A liberi uguali, sì. Però allora pensiamo, liberi e belli non era male. Liberi e belli, devo riparlare con i colleghi? Comunque, liberi e belli accanto a Max? La cosa sempre curiosa è che i paesi dove circolano più armi poi sono anche quelli che ci sono più reati, insomma, questo è un po' il problema, come negli Stati Uniti. Non riaprire questo discorso, ma stai pontificando? Voglio pontificare anch'io, una volta tanto. Vedi, a forza di star vicino a Milan che succede, esatto. Perché pensi che io me ne sono venuta comunque, via? Comunque, se vi siete persi qualche notizia, per caso, succede... Un inciso, ci ha scritto un ascoltatore: sono un furbo da 7 miliardi. Ora, che lei sia un mitomane o che sia un furbo, io la prego di chiamarci. Ecco. La supplico di scriverci di più e noi la richiameremo. Anche in privato, a Veronica Gentili. Magari io la richiamo poi. Se per vi conto siete mio. Persi qualche notizia, è il momento di un riepilogone, signori. Benvenuti a tutte le news minuto per minuto con le notizie principali di questa giornata. Lo scontro al Senato sul calendario, subito in aula il biotestamento, ultimo lo Ius Soli, la decisione del capogruppo di Palazzo Madama su proposta del PD, ma è subito scontro in aula, proteggono la decisione la sinistra, PD e il Movimento 5 Stelle, attacca invece Forza Italia, il PD fa quadrato intorno alla decisione mentre si temono trabocchetti lungo l'iter del biotestamento, mentre Donald Trump riconosce Gerusalemme come capitale Israele e promette lo spostamento dell'ambasciata palestinese nella città sacra alle tre religioni monoteiste. La decisione si scontra con la volontà di molti alleati occidentali. Trump ha avvisato i leader arabi con una serie di telefonate, ma sono critici i leader arabi. Ma Trump insiste nell'azione esposta a Gerusalemme. L'ambasciata, anche Arabia Saudita, esprime preoccupazione. Hamas minaccia lo scoppio di una terza intifada. Anche Putin cerca di frenare Trump. Critico MDP. A surriscaldare ulteriormente la partita arriva la decisione del CEO di escludere la Russia dalle prossime Olimpiadi invernali per doping. Gli atleti russi restano fermi negli spogliatoi. Solo alcuni potranno partecipare alle Olimpiadi, ma solo a titolo personale. La TV russa preannuncia il boicottaggio delle trasmissioni e non trasmetterà le Olimpiadi. Al loro posto solo repliche della signora in giallo. Ed è giallo, è giallo, è giallo internazionale dopo la rivelazione di un piano per uccidere Tese May. Un attentatore islamico che si ispira all'ISIS lo avrebbe progettato. L'azione resta ancora da chiarire. Si chiede il ricorso al VAR. Slitta oggi la decisione sul nuovo calendario delle audizioni. Slitta l'audizione dell'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni, chiamato in causa sul caso Banca Etruria, posizioni contrapposte tra il PD e il resto della commissione. Protagonista dell'azione, Maria Elena Boschi, secondo alcuni regista occulto della vicenda, mentre Maria Elena Boschi non arretra, non molla mai la posizione. Varata intanto la prima lista dei paradisi fiscali, 17 paesi nella blacklist, tra i quali Svizzera, Isole Cayman e Macao, noto soprattutto per il suo Macao, il macaco di Macao quando cacca semi di cacao. Attenzione, peculato aggravato, è arrivata la condanna in primo grado per Francesca Barraccio per le spese pazze. La fedelissima di Matteo Renzi avrebbe destinato per spese personali circa 80.000 euro. Francesca Barraccio dichiara: non parlo di giustizia e orologeria, ma i dubbi restano. Purtroppo restano anche a tutti i cittadini che pensano: che ci dobbiamo fare con 80.000 euro? Mentre nella partita Ilva braccio di ferro sul ricorso al TAR, il ministro Calenda si è detto disponibile a confrontarsi sui punti sollevati dagli amministratori locali, che però non ritirano il ricorso al TAR, anche se qualcuno per rivedere tutta l'azione dell'Ilva chiede il ricorso al VAR. Roma e Juventus approdano gli ottavi di Champions League nel giorno dell'approvazione alla costruzione del nuovo stadio romanista. Ora la Juventus si può concentrare sul big match contro l'Inter. Intanto Gattuso rinchia e sta a guardare come tutti i poveri milanisti. Mi ha colpito, ho capito tutto intanto, soprattutto del macaco di Macao. Il macaco di Macao quando cacca semi di cacao. Ti è piaciuta questa? Sì, non lo so, cioè, no, ho detto, ma c'era anche allora, ho capito bene. Leo, ma MDP ha smesso di essere critico? Critico, c'era anche oggi sulla costruzione sull'ambasciata americana. Ma poco, è molto meno critico di molto prima. Meno critico oggi, sì. Sì, esatto. Ma quando critico, è libero e bello... Comunque, signori, allora dai, qui siamo i Funamboli, c'è in redazione, vogliamo dire, anche... Mi spoilerà sempre tutto. Allora c'è Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Peter Bescapè, regia, dice Alessandro Chiappini, immagino. Eccolo qui. Ma c'è anche la nostra Elisa Pancaldi che spero temporaneamente ci lascia per un po'. E allora, supplichiamo temporaneamente. Supplichiamolo. No, sta facendo finta di piangere Elisa in questo momento. Elisa Pancaldi che... Grande collaboratrice. Elisa, siamo perduti senza di te. Vi ricordate anche Alice quando le dedicò questa canzone, insomma, quando anni fa. In realtà fu su commissione nostra, diciamo. Sì, certo. E va bene, insomma, tornerà la nostra Elisa Pancaldi. Torna a casa, Elisa, torna presto. Questa casa aspetta a te. Non ci sono funamboli di sorta che possano venire fuori senza te. Ci troviamo domani alle 9. Ciao. Lei ti ha abbracciato, ti ha preso anche la dignità.